in primo piano. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, buona domenica, ben trovati alla rassegna stampa di Radio 24. Come sempre cominciamo dalle prime pagine dei giornali e guardiamo quella del Corriere della Sera, che ha una fotonotizia di un manifestante che cerca di dare un calcio a un mezzo della polizia. Il titolo è "Scontri, paura, disagi, la protesta blocca Roma". L'avete sentito nei GR, ne parleremo ancora. È quello che il Corriere della Sera definisce, quello di Roma è stato quello che il Corriere definisce un pomeriggio di tensione con un assalto, tra virgolette, al Ministero dell'Economia, ma la rete della sicurezza ha retto. Due, naturalmente, moltissimi gli approfondimenti a pagina 2 e 3. Il titolo però al centro della prima pagina del Corriere della Sera riguarda Berlusconi, un nuovo colpo, e naturalmente il riferimento è alla sentenza di ieri, la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha deciso che l'interdizione dai pubblici uffici di Berlusconi dopo la sentenza per il processo Mediaset sulla frode fiscale, la condanna definitiva, sapete, è arrivata in estate di 4 anni per la frode fiscale, l'interdizione è stata decisa per 2 anni. La reazione di Berlusconi, accanimento, io vado avanti. Ma dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo la rubrica di domenicale di Aldo Grasso, che si intitola Padiglione Italia, e riguarda la questione Odifreddi, forse in assoluto la notizia che mi ha colpito di più di settimana scorsa. Pier Giorgio Odifreddi, matematico, che nel suo blog ha prima parlato in un post della sepoltura di Priebke. La sua opinione è che negando i funerali a Priebke, la Chiesa Cattolica si comportava in modo migliore rispetto a quanto aveva fatto con Pier Giorgio Welby, che aveva, lo ricorderete la vicenda, aveva la colpa di essersi sostanzialmente suicidato. Ecco, vi leggo l'articolo di Aldo Grasso, la rubrica di Aldo Grasso, perché ho trovato, io non avevo tanto le parole per commentare, se non molto stizzite, ma non è mai consigliabile una reazione del genere per commentare quello che Pier Giorgio Odifreddi ha detto, sostanzialmente un atteggiamento di negazionismo dell'Olocausto nel suo blog. Il negazionismo da blog del matematico Vanesio. Chi ha un pensiero è parco di opinioni, chi ha solo opinioni pretende di avere un pensiero. Al matematico Pier Giorgio Odifreddi piace interpretare il ruolo di martellatore di verità. Non gli è bastata la lettera che un fin troppo generoso Josef Ratzinger gli ha scritto per contestare la tesi del suo libro «Caro Papa, ti scrivo». Ci voleva qualcosa di più forte che lo restituisse alla ribalta. Così sul suo blog, rispondendo a un lettore sull'esistenza delle camere a gas, è andato giù pesante, aperte virgolette. Non entro nello specifico delle camere a gas perché di esse so appunto soltanto ciò che mi è stato fornito dal Ministero della Propaganda alleato nel dopoguerra e non avendo mai fatto ricerche e non essendo uno storico non posso fare altro che uniformarmi all'opinione comune, ma almeno sono cosciente del fatto che di opinione si tratti e che le cose possano stare molto diversamente da come mi è stato insegnato, chiuse virgolette. Siccome Odifreddi non ha fatto ricerche personali, è razionalmente possibile che qualcuno abbia mentito. Magari Primo Levi, magari i sopravvissuti ai campi di sterminio, magari le testimonianze e gli studi che esistono in proposito. Se non è negazionismo questo, poco ci manca. Ma al pretenzioso Odifreddi piace épaté le bourgeois, stupire. Come è facile immaginare, essendo la memoria del trauma della Shoah il fondamento stesso della costruzione dell'identità europea, le sue provocazioni non sono passate sotto silenzio. Già lo scorso anno, sempre per un testo scritto sul sito della Repubblica e poi rimosso, il matematico cuneese si era applicato alla contabilità funebre. I morti causati dai raid israeliani erano, tra virgolette, 10 volte superiori a quelli delle fosse ardiatine. Anni fa, nel suo libro Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, Compiglio Illuministico sosteneva questa tesi. La critica al cristianesimo potrebbe ridursi a questo, che essendo una religione per letterali cretini, non si adatta a coloro che, forse per loro sfortuna, sono stati condannati a non esserlo. Ultime parole della rubrica di Aldo Grasso. Ai martellatori di verità, ultimi eredi del positivismo ottocentesco, mentre si aggrappano alle loro opinioni, capita spesso di martellarsi le dita. Ecco, non sarei riuscita in poche parole a commentare meglio questa infelicissima uscita di Pier Giorgio Odifreddi. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche un interessante articolo di Gian Antonio Stella, la beffa dei 30 milioni per frane e alluvioni. Sapete, è da poco passato l'anniversario della tragedia del Vajont, quando crollò quella diga in Veneto che distrusse molte vite. E si parla sempre, quando succedono queste cose, in generale dopo le alluvioni, alluvioni, del consolidamento del suolo, del territorio. Ecco, Gian Antonio Stella ci ricorda: ma se il 62% delle frane d'Europa flagella l'Italia, causando in media 1 miliardo di danni l'anno, come possiamo investire nella prevenzione la miseria di 30 milioni, cioè molto meno di quanto è costato il centro benessere mai aperto, finanziato dallo Stato a Bagnoli? Dobbiamo fidarci ancora a San Gennaro, alla Madonna di Loreto, ai cornetti di Corallo? Non abbiamo fatto in tempo ad asciugarci le lacrime nel ricordo del disastro del Vajont e tutte le parole solenni intonate dalle più alte autorità, mai più, mai più, mai più, sono evaporate nel nulla. L'inchiesta è poi a pagina 25 e appunto ci spiega come questo danno enorme, questo pericolo enorme che corre il nostro paese sia poi di tanto in tanto ricordato quando ci sono gli anniversari e poi come sempre dimenticato. La prima pagina di Repubblica, il titolo principale dedicato a Berlusconi, Berlusconi fuori dalla politica con questa condanna seguita alla condanna definitiva del processo Mediaset a 2 anni di interdizione. Appunto, secondo la Repubblica, così Berlusconi è fuori dalla politica. Il CSM ha detto: magistrati sono stati più veloci dei partiti, e forse anche per questo il PDL insorge con Quagliariello che torna sulla questione della Severino, la legge che appunto ha avuto come conseguenza questa sentenza dell'interdizione. La fotonotizia è dedicata alle manifestazioni di Roma: sfilano gli antagonisti, Black Bloc attaccano, guerriglia a Roma. Vi segnalo poi l'editoriale consueto anche qui della domenica di Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica, Se il coraggio del fare diventa incoscienza. Ve lo segnalo perché è un po' così inusuale. Eugenio Scalfari è, mettiamola così, solitamente molto autoreferenziale. Questa volta parte in realtà dalle parole che Giorgio Napoletano ha detto al direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, in quel videomessaggio che è poi stato trasmesso ieri all'Assemblea dei Giovani della Confindustria. E appunto scrive Eugenio Scalfari: bisogna intendersi sulla parola coraggio, una parola importante che si può prestare però a vari usi. Esiste anche la categoria del coraggio facile, che è quello che in questi giorni, riferendosi alla legge di stabilità finanziaria varata dal governo, dice che bisogna fare di più e non bisogna temere di fare di più. E appunto poi scrive Scalfari: i giudizi che precedono non sono miei, ma di Giorgio Napolitano, in un videomessaggio rilasciato al direttore del 24 Ore e destinato all'Assemblea dei Giovani della Confindustria riuniti a Napoli, che poi naturalmente vedremo sul Sole 24 Ore. In realtà è indirizzato al paese, alle forze politiche, ai sindacati, ai movimenti che agitano la società in difesa dei loro interessi e delle loro visioni della realtà. Il Presidente della Repubblica, per definizione, il tutore e garante dell'interesse generale, ci richiama tutti con quelle parole alla realtà effettiva e non a quella immaginaria. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei quotidiani. Abbiamo visto Corriere Repubblica con Berlusconi e le manifestazioni di Roma in primo piano. Ora vediamo il Sole 24 Ore, che invece apre sulla legge di stabilità, che naturalmente per ora è stata approvata dal governo, poi passerà al Parlamento, ma molto ne sappiamo e sappiamo anche quali sono i punti che probabilmente subiranno delle modifiche. Il titolo è: la TASI vale più dell'IMU. Si parte da 3,7 miliardi. Sapete, la TASI è quella tassa che dal prossimo anno finanzierà i servizi dei comuni e che in questo senso sostituisce l'IMU. Dai tagli soltanto 600 milioni nel 2015 e 1,3 nel 2016. Ci sono tantissimi approfondimenti e anche una vera e propria guida alla legge di stabilità, dalle pagine 21 a 24 del Sole 24 Ore, che oggi si concentra in particolare sugli effetti che questa legge di stabilità avrà sul fisco e le famiglie, quindi la nuova IRPEF, l'effetto sulla busta paga. Mentre domani, sempre per continuare con gli approfondimenti sulla legge di stabilità, ci sarà quello che riguarda appunto la TASI e il bonus di ristrutturazioni, mentre martedì ci saranno tutte le novità che riguardano le pensioni. Ma dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche un articolo che riguarda quello che le prossime mosse della Banca Centrale Europea, crediti e bond: ci saranno regole uniche. Avete seguito forse nei giorni scorsi quella lettera che doveva restare privata, ma che in realtà Repubblica è riuscita a pubblicare, a Mario Draghi, appunto sulla questione di quelle che saranno le prossime mosse della BCE. Qui trovate appunto tutti i servizi e le analisi a pagina 8. Poi vi segnalo anche la consueta lettera al risparmiatore che Vittorio Carlini, è la rubrica di Vittorio Carlini, ogni domenica sul Sole 24 Ore. Si occupa Vittorio Carlini appunto di una società quotata in particolare, ne analizza in profondità i bilanci. Oggi il faro è acceso su UniCredit, focus sui costi operativi, più ricavi da Est e Centro Europa. Richiamate in prima pagina, poi trovate l'intera pagina 26 dedicata appunto a UniCredit. E sempre per gli appuntamenti consueti della domenica del Sole 24 Ore c'è l'intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco. Oggi il titolo è Tre ragioni per il grido di vergogna del Papa. Il grido di vergogna del Papa, lo ricorderete, quello lanciato dopo la tragedia di Lampedusa all'inizio del mese. Tre ragioni per il grido di vergogna del Papa: l'immigrazione e le responsabilità di tutti. Vediamo la prima pagina della stampa, anche qui il titolo principale, i due titoli principali sono quello su Berlusconi, si riapre il caso Berlusconi, e poi c'è quello che noi in gergo chiamiamo palchettone, cioè un articolo che viene richiamato sopra al titolo più grande dal punto di vista tipografico, che riguarda Roma. C'è anche qui una foto di un manifestante che lancia qualche cosa contro i poliziotti, in assetto da sommossa, antisommossa naturalmente. Roma, tensione, bombe carte al corteo degli antagonisti, ma il piano sicurezza funziona. C'è un interessante intervento che inizia in prima pagina e poi continua a pagina 27 di Mario De Aglio, l'economista, che riguarda l'Italia. Forse ricorderete, settimana scorsa abbiamo letto sulla questione all'Italia i pezzi di Gianni Dragoni sul Sole e quello di Federico Giavazzi sul Corriere della Sera, molto critici naturalmente entrambi. Qui c'è un'idea per salvarla: Alitalia diventi la regista del turismo. Scrive Mario De Aglio, da almeno 20 anni i problemi dell'Alitalia sono diventati la triste caricatura dei problemi economici dell'Italia. L'Alitalia rischia di non riuscire a volare perché troppo appesantita dai debiti, così come l'Italia rischia di non riuscire a riprendere la via della crescita economica e di ricadere nella procedura europea di infrazione per un deficit che solo con molta fatica si riuscirà a tenere sotto il livello del 3%. E poi appunto De Aglio affronta questa questione che chi viaggia, come a me a volte capita di fare tra continenti, questa questione dell'Alitalia che, soprattutto da quando è entrata nell'orbita di Air France, ha perso moltissimi voli diretti, e con questo come conseguenza anche la perdita di molto turismo, perché la prima fermata come spiega anche De Aglio nel suo pezzo, di molto di quel turismo che sta diventando sempre più importante, che viene dall'Asia, la prima fermata di questi turisti non è uno scalo italiano, ma è uno scalo come Parigi, come Francoforte, cioè gli hub di Air France e di Lufthansa. E questo poi, in seconda battuta, i turisti vengono in Italia, ma a quel punto forse sono già un po' stanchi, hanno già speso molto, quindi appunto è una questione che è legatissima al turismo, quella di avere un vettore nazionale. Ma la fotonotizia della stampa, che poi richiama un bellissimo reportage, le pagine 12 e 13 di Francesca Paci, è su Gaza: viaggio nella Gaza isolata dal mondo. L'Egitto chiude i tunnel dove passavano le merci che garantivano la sopravvivenza nella striscia. E ci ricorda Francesca Paci che i palestinesi hanno creato oltre 1.000 tunnel che fino al 2011 producevano ricavi ad Hamas per 500 milioni di dollari. Il reportage appunto lo trovate alle pagine 12 e 13, con anche un disegno che spiega come funzionano questi tunnel. Ma dalla stampa di no, scusatemi, passiamo alla prima pagina del giornale, che invece ha un titolo su giustizia e tasse. Il titolo è La cupola delle porcate. I magistrati interdicono Berlusconi e brindano: abbiamo vinto la gara col Parlamento per farlo fuori. Il presidente di Confindustria: la manovra del governo Letta è una porcheria, ma noi gli vogliamo bene. Ecco, messo tutto insieme, questo è il senso. Però vi segnalo poi appunto all'interno un approfondimento sulla questione fiscale, sulla questione di giustizia. L'editoriale è di Alessandro Sallusti, come il direttore del giornale. Vi leggo le prime righe. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha definito ieri la manovra economica del governo una porcata, inutile per il paese, ma ha aggiunto: guai a far cadere Letta. Vi segnalo poi, perché tra l'altro ho sentito Gianluca Nicoletti a Melog che ne parlava, anche un altro titolo che il giornale mette in prima pagina, che è Intellettuali del Piffero, ed è dedicato al libro, appunto, sui cosiddetti intellettuali di sinistra, un libro di sinistra che smonta gli pseudopensatori di sinistra. E la fotonotizia è un fotomontaggio di cinque volti che il giornale definisce sbertucciati, che sono quelli di Corrado Augias, Roberto Saviano, Gianni Vattimo, Umberto Eco e Lidia Ravera. E poi vi segnalo anche un intervento, anche questo è una consuetudine della domenica sul giornale, di Giuliano Ferrara, che riguarda la puntata di Santoro con la puntata dedicata alle dichiarazioni di Sabina Began. È una puntata, ognuno si sarà fatto la sua idea, a me non è piaciuta per nulla e per questo appunto ho letto con grande interesse l'editoriale di Giuliano Ferrara che si intitola La buon costume per Santoro. E vi leggo le prime righe. Qui ci vuole il migliore professor Brunetta e Bondi la smetta di dire stupidaggine sull'unico parlamentare della destra che combina qualcosa. Michele Santoro bisognerebbe chiuderlo con ordinanza della buon costume. Il conduttore unico delle coscienze ha trovato, ma non è la prima volta, la sua, aperte virgolette, bottana socialdemocratica, come diceva sfarzosamente il dialogo di un celebre film della Bert Müller. Lo ricorderete, quel film con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Ma vediamo la prima pagina di Libero. Marci su Roma, prove di rivolta sociale, immigrati no global, sindacalisti incappucciati e perditempo assediano i ministeri, scontri con la polizia, vandalismi e arresti. Vi segnalo però un articolo del direttore di Libero Maurizio Belpietro che prende spunto dal caso Scaglia. Sapete, questa settimana è arrivata l'assoluzione di Silvio Scaglia, che però era stato anche in prigione per questioni legate a Fastweb. E Maurizio Belpietro, tra l'altro, poi all'interno tutta una serie di dati molto interessanti, spiega quanto costa la mala giustizia che riguarda naturalmente per molti, ma probabilmente anche vero, il caso Berlusconi, però riguarda anche tutte le imprese che, italiane ma anche straniere, che hanno guai con la giustizia e che quindi bloccano, vedono la loro azione normale economica bloccata appunto da quella che è la mala giustizia civile. Errori giudiziari e processi lenti, ci spiega Libero a pagina 7, costano 18 miliardi all'anno, così se ne va l'1% di PIL. Naturalmente la riforma della giustizia è una cosa di cui si parla sempre e che però attendiamo tutti, imprese, cittadini normali e un po' meno normali come Berlusconi, da tantissimi anni. Andiamo alla prima pagina del manifesto, Invisibili, e la foto è quella del corteo dei movimenti di Roma, invisibili forse anche perché appunto dovendo parlare di black bloc, di manifestanti violenti, si è perso poi anche magari un po' il senso di quelli che invece hanno manifestato in modo molto pacifico e che difendevano o chiedevano che fossero difesi una serie di diritti. Il diritto alla casa o anche le ragioni di chi non vuole la TAV e di molti altri. La prima pagina dell'Unità invece ha un titolo a tutta pagina su Berlusconi, senatore abusivo, viene definito la Corte d'Appello, e poi invece una fotonotizia dedicata anche in questo caso alla manifestazione di Roma. Il titolo è diverso da quello del manifesto, anche la foto è diversa. Qui c'è un manifestante che inseguito dalla polizia in tenuta antisommossa, però il senso è un po' lo stesso: Roma, corteo rovinato dai violenti. Da prima pagina del Fatto Quotidiano vi segnalo un editoriale di Marco Travaglio. Chi di gossip ferisce? Anche qui la questione è Santoro, però secondo me questo editoriale è molto meno efficace di quello di Ferrara perché sembra un po' un arrampicarsi sugli specchi. Travaglio fa una difesa d'ufficio di quella trasmissione, appunto, servizio pubblico e di Santoro, su quello che credo chiunque l'abbia vista è stato sicuramente uno spettacolo non edificante, con queste accuse tutte a sfondo sessuale, che forse, appunto, forse anzi, io mi ero riproposta addirittura di non parlarne, però come sempre trovo persone che riescono a commentare, come oggi Giuliano Ferrara sul giornale, meglio di quanto saprei fare io, e questa questione, quindi l'ho citata, però chi volesse appunto l'altra faccia è quella dell'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. In primo piano. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine, le abbiamo viste un po' tutte. Mancava quella dell'Avvenire, che vi segnalo perché oggi è la giornata missionaria mondiale e quindi l'Avvenire ha un editoriale in prima pagina di un missionario, appunto Giulio Albanese, e poi all'interno un approfondimento a pagina 7 da Fratelli e Testimoni sulle strade del mondo. Oggi è la giornata missionaria mondiale e Papa Francesco ha detto: portiamo così appunto il Vangelo nelle periferie. La prima giornata mondiale dei missionari si tenne, lo ricordo, ricorda avvenire nel 1927. Questi spesso invisibili missionari, che però chiunque abbia conosciuto, e ne ho conosciuti alcuni in Africa, sappiamo fanno un lavoro straordinario di vera e totale abnegazione. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, oggi è domenica, naturalmente ci sono molte partite. Milan a tutta birsa è il commento alla partita di ieri sera, dove il Milan ha vinto 1-0 sull'Udinese con un gol appunto di Gabriel Birsa. Vediamo invece le pagine interne, velocemente quello che ho trovato da segnalarvi, e poi cerchiamo di avere un po' di tempo per i supplementi culturali della domenica. Dal Corriere, una storia raccontata da Guido Santevecchi da Pechino su Xi Jinping, cuore di mamma, la dura infanzia del Papa. È apparso sul quotidiano del Popolo, appunto, un ritratto dell'attuale presidente cinese Xi Jinping. La foto è quella, lo ritrae insieme alla madre Qi Xin, che ha 87 anni, e così una finestra sulla vita familiare, su come è cresciuto questo leader dell'unico paese comunista rimasto, o almeno così si definisce. Ed è interessante, ci spiega, conferma alcune cose che sappiamo appunto sull'educazione molto dura che hanno i cinesi, a maggior ragione se sono destinati a fare i leader del partito, però anche ci racconta cose che non sapevamo. Da Repubblica vi segnalo, ma la notizia la trovate su tutti i giornali, che sarebbe appunto stato trovato un accordo per la sepoltura di Priebke, l'ex capitano dell'SS che è morto a Roma settimana scorsa a 100 anni. L'avvocato dell'ex SS ha detto ieri che c'è l'accordo con le istituzioni, sarà in una località segreta. La prefettura però ha risposto che in realtà ci sono per ora soltanto delle ipotesi. Intanto un medico bresciano ha offerto il suo cimitero di famiglia, e a Treviso ci sarà la cerimonia di un prete lefebriano. Dalla Repubblica vi segnalo anche un aggiornamento sulle regole per le cure all'estero. Ospedali senza frontiere, scatta la libertà di curarsi in tutte le città d'Europa. È partita appunto questa direttiva dell'Unione Europea, è stata approvata, quindi le terapie saranno gratis con alcuni limiti. Dalle pagine interne torniamo un attimo sulle pagine interne del Sole 24 Ore, perché oltre appunto a quello che vi dicevo sugli aggiornamenti su quello che la Banca Centrale Europea si appresta a fare, c'è un'intervista a pagina 11 di Beda Romano da Bruxelles al commissario europeo al fisco, che ribadisce rientro dei capitali sì, amnistie no. Comprensibile il bisogno di un nuovo gettito, è quello che per esempio aveva spinto anche al famoso e famigerato scudo fiscale qualche anno fa, ma è meglio non creare azzardo morale, così lo definisce. L'approfondimento sulla legge di stabilità, vi ho già detto, lo trovate alle pagine 21-24. Vi segnalo dalle pagine interne della Stampa un reportage di Andrea Malaguti da Lampedusa, destinazione 34esimo parallelo, qui dove si salvano i disperati, cadaveri in mare, barconi alla deriva, viaggio sul pattugliatore Vega nel canale di Sicilia. Appunto, si parla spesso di, giustamente ne continuiamo a parlare, delle questioni legate all'immigrazione e ai migranti. Qui appunto Andrea Malaguti è proprio andato su uno di questi pattugliatori che devono soprattutto dovrebbero individuare gli scafisti, punirli e magari senza magari e salvare delle vite. Ma veniamo ai supplementi culturali, perché come sempre il tempo è tiranno. Cominciamo dal domenicale del Sole 24 Ore. Vi leggo come sempre il breviario di Gianfranco Ravasi. Oggi si intitola Autunno. La citazione è una poesia di John Donne, e vi leggo i tre versi che Gianfranco Ravasi ha scelto. Nessuna bellezza primaverile, nessuna bellezza estiva ha una tale grazia quale ho visto in un volto autunnale. Scrive Ravasi. Amo la poesia di John Donne e amo più di ogni altra la stagione autunnale. Si pensi solo a quella tavolozza mirabile di colori che offrono le ottobrate romane nei parchi. Ai nostri giorni impera invece la patinata levigatezza del corpo primaverile, modellato dal fitness o dal chirurgo, cioè l'artificiosa e inerte figura creata dallo spot pubblicitario. Oppure è l'opulenza della figura estiva, che possiede tutti i crismi del benessere, della moda, dei gadget. Quando si ama, anche il volto autunnale della tua donna o mano del tuo uomo, di tuo padre o di tua madre, con la sua velatura di rughe, custodisce una trama di segreti da scoprire, conserva un suo fascino e una sua bellezza. Aveva ragione Lichtenberg, un viso autentico e non artefatto è la più interessante superficie del mondo. Dalla prima pagina vi segnalo anche la rubrica del direttore del Sole 24 Ore, anche di Radio 24, Roberto Napoletano, e si chiama Memorandum. In generale Roberto Napoletano la scrive dalla prima all'ultima riga citando, oggi invece lascia proprio spazio perché è tutto un virgolettato, a una lettera che ha ricevuto da Stefania Marzano qualche giorno fa. È una giovane ricercatrice che aveva 35 anni, aveva questo sogno di continuare a studiare e lavorare in Italia, si è dovuta arrendere e racconta perché. Naturalmente le ragioni sono quelle di un bassissimo stipendio, di una difficoltà enorme a trovare un lavoro adatto alle sue capacità e quello della scarsa meritocrazia. E appunto Roberto Napoletano intitola questo memorandum Racconto italiano di un paese che muore e cita l'intera lettera di Stefania Marzano e poi scrive Non ho nulla da aggiungere. Quindi vi raccomando di leggerlo appunto dalla prima all'ultima riga perché così come secondo Mauro De Agliola l'Italia è una metafora di quello che sta succedendo nel nostro paese, forse la vicenda di Stefania Marzano, senza forse, lo è altrettanto. Vi segnalo dalle pagine interne del Sole 24 Ore anche un approfondimento dedicato alla mostra che si inaugura tra poco a Palazzo Morale, a Palazzo Reale a Milano ed è quella Andy Warhol. Andy Warhol è, non so se ci fossero dei best-seller delle mostre, beh, quando c'è una mostra di Andy Warhol andiamo tutti a vederla perché in effetti ha sempre questa immediatezza, ma che poi naturalmente dietro racconta tante storie e in questo caso c'è un articolo di Ada Masoero, una storica dell'arte, che ci riracconta, perché non si smette mai di farlo, Andy Warhol. Dalla sezione Tempo Liberato vi segnalo un articolo di Pia Pera molto interessante, mi ha molto divertita, si chiama Saputelle queste piante. In realtà parte dalla recensione di due libri, uno di Stefano Mancuso e Alessandra Viola, Verde Brillante, l'altro di Daniel Chamovitz, quel che è una pianta sa guida i sensi del mondo vegetale. E appunto il racconto riguarda quella che Pia Pera definisce l'intelligenza dei vegetali che esiste. Ci sono specie che attraggono acari carnivori per eliminare quegli erbivori che le insediano, per esempio. Dalla Domenica, il supplemento culturale di Repubblica, vi segnalo la copertina che è dedicata a Proust. Perché ricorre un importante anniversario, ci sono due articoli, uno di Daria Galateria che è un po' un racconto dell'opera di Proust e poi c'è un racconto di Proust. Monsieur Proust e il condominio è molto divertente perché anche Proust si è occupato di questo interessante aspetto della vita moderna che sono il condominio e le riunioni di condominio. Poi vi segnalo un reportage di Gabriele Romagnoli da Hong Kong 2,6 metri quadri, 7 milioni di persone su 1000 chilometri quadrati, significa per tutti vivere in verticale, per i più poveri dentro appartamenti simili a piccole celle di enormi alveari, viaggio da incubo nell'altra faccia della metropoli cinese dove capitalismo e socialismo si annullano a vicenda. Ma veniamo alla lettura, il supplemento del Corriere della Sera, qui vi segnalo un articolo che ho trovato bellissimo di Giuseppe Remuzzi, intitolato Quanta paura hanno i dottori? È Giuseppe Remuzzi, tra l'altro, è lui stesso un medico e ci racconta che quella parte molto umana dei medici, che forse a cui noi non pensiamo, cioè il loro timore di sbagliare, il timore del dolore altrui e proprio, il timore della verità. E poi i bambini, e qui dice Remuzzi: dobbiamo imparare dalle mamme, cioè a trattare appunto con i bambini, che spesso sono anche pazienti e che quindi con i quali i medici. Magari anche quando non sono pediatri, devono relazionarsi. Mi fanno segno che purtroppo il nostro tempo è finito. Vi segnalo solo dalla lettura un racconto di Joël Dicker, che è l'autore di quel bestseller, La verità sul caso Harry Quebert, e sono quattro pagine, appunto un racconto inedito con tra l'altro delle bellissime illustrazioni di Antonello Silvestrini. Era l'ultima segnalazione che riusciamo a fare. Una buonissima domenica da Giulia Crivelli.